Paolo da Siena che sta scrivendo delle memorie per i suoi figli. Pronto Paolo? Ciao Matteo, buona serata. Buona serata anche a te Paolo. Tu, scusami, stai scrivendo delle memorie per i figli perché hai semplicemente voglia che loro leggano di te quando saranno grandi o perché pensi di non trasmettergliele oralmente? No, la prima che hai detto. Ah, nel okay. senso che è qualcosa di segreto, di nascosto per ora, e come vedi lo dico alla radio che cioè, infatti guarda, mi hai anticipato proprio al volo, è un ossimoro. Dove ti trovi adesso Paolo, scusami? In questo momento io sono qui su una strada, sto tornando verso casa. E hai tra le mani il diario? L'ho sul computer che ha il 12% di batteria residua, quindi ho detto spero di farcela. E allora dai, ce la facciamo, leggimi 5-6 righe Paolo. La parte in cui tratto del contatto fisico che ho con i miei figli. Quanti anni hanno i tuoi figli, scusami, prima di cominciare? 2 e 10. Quando vuoi, Paolo. Anche in questo la donna della mia vita mi è stata di guida e maestra. Lei ha mai fondato e adesso fa parte integrale del rapporto di amore che unisce le persone. Così, seguendo lei, mi sono trovato un bel giorno a prendere coscienza che io non posso fare a meno del contatto. E in questo i figli ci hanno seguito. Lo strusciamento è un'arte molto praticata in casa. Principalmente all'inizio e alla fine della giornata, evento spesso scatenato dall'andare a letto. Ma non è raro che scariche improvvise di strusciamenti si verificano quando meno te lo aspetti. Il contatto assume forme assai diverse, si va dalla carezza al bacio all'abbraccio. Poi c'è il vasto panorama delle grattatine, la mai sopita e terribile minaccia delle torturine. Infine, al culmine, i massaggini. Sui primi c'è poco da dire e sono funzionali a dirci che esistiamo e che ci siamo accorti l'un dell'altro. Le grattatine rappresentano un primo livello del piacere di stare insieme. Durante le grattatine è normale fare altre cose, quale parlare, ascoltare la musica, e ammessa anche la navigazione web. Chi subisce la grattatina è a suo modo, esplicitamente o implicitamente, chiede conforto. Necessita di staccare la mente, agogna un po' di relax. Paolo, scusami, io davvero ti farei leggere tutto, però tu mi devi dire, innanzitutto che cosa fai nella vita? Lavoro in banca, molto semplice. Lavoro in banca, però questa idea dello strusciamento, elevato come concetto filosofico, quasi antropologico, di amore verso i propri figli e i propri cari, è meraviglioso. Se tu hai voglia di mandarmene un pezzo, giuro non lo leggo nessuno. Io sono qui, chiocciolaradio24.it. Ciao, buona serata. Ciao, grazie Paolo, grazie a te.